Dopo il nostro programma di studio del fenomeno dell'umanesimo con degli elementi concreti e con dei raccordi generali, abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi due cari amici che sono nello stesso tempo due maestri dell'umanesimo padovano. E come mi disse l'amico Villanovic quando la prima volta lo pregai di essere qui fra noi, stamani intesseranno un carme amebeo, cioè vi parleranno dell'umanesimo padovano partendo non da differenti punti di vista, ma partendo da angoli e da considerazioni diverse. In questo modo, alla fine dei due seminari, delle due lezioni, voi avrete un giro d'orizzonte relativamente completo, o perlomeno che vi dia la concretezza di aspetti, persone e momenti di questo umanesimo. Così, ancora una volta, come per la lezione del professor Asilai, come per quella del professor Goldbrunner, del dottor Setz e degli altri, voi avrete un quadro concreto, cioè porterete con voi a casa non delle generalizzazioni, ma delle realtà precise, effettive, sulle quali poi continuare le vostre riflessioni e le vostre osservazioni. Comincerà il professor Guido Villanovic che ci parlerà di, potremmo dire, del preumanesimo padovano, cioè di questo mondo preumanistico, come si suol dire, ma che pur tuttavia, grazie proprio agli sforzi congiunti dei due fratelli Villanovic e degli studiosi che insieme con loro si preoccupano di questo problema, si sta rivelando un mondo di una varietà e di una ampiezza insospettata. Noi di Padova normalmente conosciamo il solo Albertino Mussato, ebbene ci accorgeremo proprio oggi che questo mondo è invece ben più ricco, ben più vario, ben più articolato e soprattutto ben più concretamente inserito in una vita e di una realtà storica e culturale. Quindi io senz'altro cedo la parola, e non vorrei rubare altro tempo, cedo la parola al professor Guido Villanovic per come dire, per il primo canto di questo Carme Amedeo. Dunque, io ringrazio il professor Manselli di queste parole, almeno nei miei riguardi, fin troppo buone, assolutamente. E così dell'ospitalità, di questo invito, devo dire, mi è giunto così. Io sono fuori dal mondo accademico, amo queste cose e cerco di trasmetterle in qualche modo adesso a voi. Le prime reliquie. Nel 1127, 19 agosto, e poi susseguentemente fino al 1154, 30 aprile, noi troviamo nella zona nobile, direi, di Piove di Sacco. Dico nobile perché molte famiglie illustri, nobili, padovane, derivano proprio da Piove di Sacco. Troviamo ricordato, e un po' fa tremare questo, Ioannes de Dardano, o Ioannes Dardani, o addirittura anche la moglie, Constatanos Ioannes de Dardano et Cunizza Iugales, in atti notarili, ovviamente, cioè questa presenza, non dico già, ma insomma, la presenza di un nome, Dardano, che qualcosa ovviamente a Padova deve significare. Non siamo nel 400, alla fine del 400, siamo nel 1127, fino, ripeto, 3-4 presenze, fino al 1154. Così butto lì, questa non è una ricerca sistematica sui nomi, ma posso dire che ben raramente ho trovato nello spoglio dei documenti, non fatto certo per trovare il nome, Dardano, il progenitore troiano. Più tardi, e fissiamo subito, dico, questo Dardano che poi risalterà fuori. Più tardi, nel 1210, al restauro della Porta delle Torricelle, per chi conosce Padova, l'attuale inizio della Riviera dei Ponti Romani, lì c'era una porta, purtroppo, come tante altre cose, scomparsa, e al facimento di un certo tratto di mura, Podestà Jacopo degli Anditi di Piacenza, il grammatico, e diciamo sempre questi bravi uomini, questi direbbe il professor Sandini, in termini molto semplici, bravi uomini, Giovanni de Valdetaro, da Valdetaro, compone un'iscrizione che è stata un giorno esaminata da un erudito padovano, il Fabris, con passione, ma che insomma fa anche questa tremare. L'iscrizione dice, dopo aver nei primi quattro versi ricordato Jacopo degli Anditi e la costruzione del muro, dice esattamente così: Vos antenoride, purtroppo io pronuncio con gli umanisti il latino, non dirò Chichero, mi scuso, si tuti vultis ab oste esse foris muro pax vos liget intus amoris. Arboreis frustra petitur sub frondibus umbra, interius morbus si viscera torret acutus. Ne perea tigitur labora chi impendi amuri, e qui questo grazioso finale, consilium il consiglio, vatis vestri servate Ioannis. Francamente per me questa iscrizione è superiore a Rolandino, senza ombra di dubbio, cioè c'è un afflato, scusate, c'è una forza, al di fuori forse di assonanze, di rime, c'è un afflato, c'è una forza, quell'antenoride posto lì davanti, voi antenoridi, discendenti di Antenore, se volete essere sicuri dal nemico di fuori, abbiamo fatto queste mura, abbiamo restaurato questa porta per difesa dal nemico, muro pax vos liget intus amoris, una pace, un muro d'amore creato dalla pace, voi dovete avere dentro, cioè questa concordia di fronte alle cosiddette ormai discordie intestine che troveremo in usato, che ritornano sempre, questo bisogno di una pace che leghi i partiti, che leghi. E poi avete capito, se si vuole l'ombra sotto, in vano si cerca l'ombra sotto gli alberi fronzuti, se non c'è, se poi invece c'è dentro un morbo acuto, scusate, lo lascio così com'è, che ti rode, che ti riscalda e ti consuma. E perché non perisca, non vada a vuoto la fatica e la spesa per fare questo muro, queste mura, ricordate, cercate di ricordare il consiglio di questo vate Giovanni. Molto velocemente, io poi ho la mania, sono accusato in tutta Italia degli echi classici, e forse posso anche annoiarvi con queste cose, ma facciamo molto, molto, molto, molto in fretta. Se volete, lasciamo stare Ovidio, Orazio, Sermones, secondo quod latus autorenes morbo temptentur acuto. O se vogliamo, per la finale, la solita reminiscenza vergiliana, bucoliche 9. Omnia, dice Carminibus, sapevo vestrum osservasse menalcam, il vostro servitore, il Giovanni, con un ricordo vergiliano. È inutile adesso dire che nei preumanisti padovani ricorre anche un ricordo di questa iscrizione. Iscrizione che ora uno, se vuole, legge sul ponte, ma delle Torri Cede, ma infissa in un palazzo, non più nella porta, che bellissima anche come scrittura. In frettissima dico, per chi conosce Marsilio, è ovvio, Marsilio si proclama, il grande Marsilio, Antenoride Sego. Antenoride Sego. Petrarca dirà urs Antenoridum. Ed è ovvio, e la derivazione poi, diciamo, se vogliamo anche dire, è un po' Servio, ma Servio come figli di Antenore, non come i padovani. Ho nominato Rolandino. Subito dopo questa iscrizione del grammatico Giovanni, cioè Rolandino aveva 10 anni quando questa iscrizione era posta, e nella cronaca di Rolandino appare questa iscrizione. Lui la ricorda. Rolandino è però fuori da un certo mondo, di quelli che chiamiamo proto-umanisti, primo-umanisti padovani. Rolandino ricorda anche lui Antenore, non stiamo adesso, perdonate, a cercare tutti i ricordi di Antenore tra i padovani, il suo ricordo nel 12° libro, all'inizio, Livio inizia la sua storia partendo iam primum omnium satis constat Antenore, cioè Antenore ed Enea e Padova. Così Rolandino, numquid Padua condam est ab Antenore constituta egresso civitatem Troianam e a demora cum Enea conditore romano. Il commentatore, il bravo Bonardi, sotto metteva Virgilio, il fatidico Virgilio 1.240 e seguenti, il ricordo di Enea che riposa, vedremo in pace a Padova, così. No, questa volta è una somma diversa. È Solino più Livio. Virgilio, il poetico Virgilio, qui non c'entra. Con questo non voglio dire che ovviamente non ci fosse la trazione anche del brano che conosceva la memoria, ovviamente, di Virgilio. Ebbene, Rolandino è lo storico, il cronista vero indiscusso degli Ezzelini, il più grande cronista padovano. Velocemente dico, il latino di Rolandino non mi commuove, perlomeno per me, letterariamente parlando, non risente di echi continui classici, non è frutto di un avvicinarsi a questi studi umanistici, agli studi ai poeti o agli storici antichi. No, è difficile trovare una reminiscenza classica. Lui ne dà parecchie, ma piuttosto comode, comuni, slavate. Dicevo, Rolandino, il cronista di Ezzelino. Benissimo, da Rolandino, che non appartiene a questo mondo padovano, nel tempo, negli anni più crudi della tirannide di Ezzelino, sempre per chiamare Ezzelino con il cliché di allora, il mostro orrendo nato dal demonio, lasciamo stare gli studiosi moderni che rivalutano sotto un'altra chiave l'opera di Ezzelino, noi parliamo subspecie padovana, vero, di allora. In questi ultimi anni della tirannide di Ezzelino scoppia improvviso, al di fuori direi, e qui so di poter essere contraddetto perché è facile, dal mondo vero e proprio dell'università, ricordate Rolandino, notaio del comune, era come prima, insomma divenne poi professore all'università, mentre questo mondo preumanistico padovano di cui noi oggi parliamo, anche se gli storici antichi hanno cercato di fare che solo Ovato professore, altri professori, no, questi sono al di fuori dell'università, evidentemente sono dentro la vita politica della città, hanno l'influsso pieno sull'università, vengono chiamati dall'università per varie occasioni e poi vedremo se mai. Ma in conclusione, al di fuori di questo mondo vero e proprio dell'università, sboccia improvvisa alla fine della tirannide ezzelina negli ultimi anni questo mondo preumanistico. Perché? Perché si parte da Lovato, Lovato dei Lovati, 240 non sicuro, data ipotetica, 1240 vuol dire per me subito una cosa, e la dico, non si è mai pensato finora, il padre di Lovato, notaio come Lovato, non si sapeva, ho avuto la fortuna, come è capitato a me, come poteva capitare ad altri, di trovare i primi atti di Lovato notaio, che poi diventerà giudice, il padre di Lovato stende 3 atti per l'acquisto che Ezzelino fa di un palazzo con altre case e con torre, e la successiva, il successivo passaggio a Parolfino, un'altra persona di quel tempo, e poi la ricevuta, la quietanza di questo Parolfino. Benissimo, questo documento del 5 giugno, questi tre documenti, 5 giugno 247, in piena tirannide ezzeliniana, mi permetto di ricordarlo, per quanto subito diremo, cioè, Ezzelino, il tiranno, allora crudelis ut nero, questa è l'equazione, Ezzelino è uguale Nerone, diciamo subito perché proprio Nerone, è evidente che tra le immagini, tra i tiranni nominati dall'antichità, Nerone era quello che più poteva, ma c'è un altro discorso, già qui c'è sotto la tragedia più umanamente attuale, per allora più umanamente storica, sia pure pseudo Seneca, ma per loro di Seneca, l'Ottavia. E annunciamo subito la tragedia del pazzo Nerone, di questo folle mostro, l'Ottavia, che uccide la madre, e Seneca, precettore di Nerone, ecco che diventerà, anche se non lo dice espressamente, la tragedia sulla quale non come influssi formali, ma come motivo Lovato, Mussato si è avvicinato per primo, cioè Mussato per giungere alle Cerinide, ovviamente è partito più che dalle altre tragedie, da questa tragedia tremendamente umana, ripeto, disperata, l'Ottavia. Allora, torniamo ancora, in questi ultimi anni nasce questo fenomeno del preumanesimo padovano, proprio quando c'è questa equazione Ezzelino crudeli sut nero. Poi Ezzelino finisce il 27 settembre 259 fatto prigioniero, il 1 dicembre 56 i suoi beni vengono confiscati, bellissimo l'atto dove la parola perfidus è la parola più buona che si possa pensare di questo Ezzelino, e Ezzelino finisce e passiamo a questo recupero da parte del libero comune padovano delle libertà patrie. Proprio allora inizia quest'umanesimo con Lovato. Lovato e Zambono di Andrea. Diciamo prima di tutto Lovato. Lovato non è doctor, per ritornare al discorso che ho fatto prima, iuris civilis, ufficiale con carta bollata dell'università. No, come per esempio Geremia da Montagnone, che avrete sentito nominare. Lovato è, diciamo, quasi un autodidatta in un certo senso. È un fenomeno, è un mostro. Noi almeno, amici che studiamo questo, continuiamo a dire. Una persona che vive per tutto quello che è stato, per tutto quello che è tradizione patria. Lovato che dà inizio a questo fenomeno irripetibile per me, cioè questa piccola scuola, adesso vedremo, che nasce su un legame incredibile di sangue, perché c'è Lovato e poi c'è un suo nipote, e di affetti, una vera famiglia di dotti. Per questo è stata definita questa scuola con i termini anche più intimi, da luna di miele, una cerchia, un circolo, un cenacolo, tutto quello che volete. Scuola, ripeto, che è chiusa in sé. Loro dicevano in un fedus amoris, addirittura. Io ho detto linguaggio catulliano, sarà, non importa, non discutiamo su questo. Un fedus amoris, un patto d'amicizia, di amore. Cose che, ripetono, non possono ripetersi più, ovviamente, perché forse per i tempi, forse per questa persona di Lovato, che sarà difficile rinasca. Lovato notaio giudice, ecco, fuori da ogni vuota retorica, questi termini si possono usare, come subito diremo, cioè scuola, cenacolo, cerchia, circolo. Lovato notaio giudice, cavaliere e poeta, con questo miracolo che non cessa giorno per giorno di stupirci, con questa sua forza mostruosa. Naturalmente dietro a questa forza c'è lo studio. Senza lo studio nulla ci sarebbe. E forse lo sforzo più forte che in questi anni si va facendo per rivalutare, cioè no, per rivalutare, per far conoscere questo Lovato che non appariva fino a pochi anni fa nelle storie letterarie, guardate che Musato è noto come la macchia d'olio, di Lovato nessuno parlava. Lovato è una persona assolutamente ignota, era perlomeno, cioè anzitutto il suo studio, la sua preparazione. Non vi tedio ora, naturalmente lo studio fatto su manoscritti in Carolina antichi, che vedremo semmai, lo studio su cediglie, l'assorbire le cediglie dei manoscritti per ripeterle, in conclusione è quello che poi farà il salutati Poggio Nicoli, 150 anni prima. Chi ha pratica di pergamene a Padova, io posso esaminare 2000 pergamene prima di trovare un notaio che scriva con la cediglia, credo ce ne vuole, insomma. E i primi atti di notaio, il secondo, non il primo, presenta questo prorompere all'improvviso la terza riga di cediglie, che vogliono dire le cediglie. In altri casi, l'episodio, il fatto contrario, di fronte al manoscritto che gli dava Ae, lui nei suoi carmi deve scrivere, diciamo, Rome, scrive Romae, proprio perché avendo appreso questa lezione. La apprende talmente che nei suoi carmi abbiamo 5 poesie, poi qualche altra, 5 lettere, poi qualche altra poesia in questo che farò per dire, 5 lettere della prima giovinezza. State a sentire, la voce di Orazio gli è talmente dentro che mentre i medici si affannano per farlo guarire, lui dice: «Meque iubent teneris vetitas», c'è un errore letitas nel manoscritto, perché lui qualche volta fa di questi errori che poi sono nel Boccaccio, sono in tanti, io correggo, credo, con vari motivi. «Vetitas involvere luces lusibus, incenam qua gula poscet eam». Mi ordinano, insomma, di avere certe precauzioni. A un certo punto, invece, incenam qua gula poscet, contro i medici, contro chiunque, eam. Orazio dice, epistola prima, «Si bene qui cenat, bene vivit, lucet, eamus quo ducit gula, piscemur». Uno può dire: benissimo, lui ricordava Orazio, ma lui non lo dice. Ma al margine c'è la variante fatidica, che io tante volte ho sognato di trovare, questa volta mi è capitato, c'è la variante ducit al posto di poscet. Qua gula poscet, lui mette la variante ducit, cioè il ricordo di Orazio era proprio. E non è detto che sia proprio col testo davanti di Orazio. Per loro era un fatto continuamente di sovrapposizione di queste fonti. Tanto è vero che anche il quam, cioè il quo ducit gula di Orazio, nella sua versione è qua gula poscet o qua gula ducit, ma il qua è corretto da un quam precedente. E anche quello non era un errore. Lui, sentendolo d'orecchio, proprio per dove la gola ci conduce, il quo di Orazio in poche parole. Scusate queste cose, ma perché insomma siano un po' dimostrate, ecco. Lovato, indiscutibilmente, bisogna dirlo una volta per sempre, è la guida di questo cenacolo. Lo sa mio fratello, lo sanno gli amici, Augusto Campana per primo, non c'è manifestazione di nessun genere, direi con sicurezza di nessun genere, del seguito dei preumanisti padovani che non parta da Lovato. Insomma, che Lovato non abbia dato in un codice, in un attimo, in un sunto, l'ispirazione per questo, per quello, per mille altre cose che poi si potranno anche vedere. Tutto si compie, insomma, sulle sue direttrici di marcia. Dietro Lovato, Rolando da Piazzola, il nipote, figlio di Guido e di una sorella del poeta. Nipote più giovane di pochissimo di Musato, che adesso subito vedremo, nipote giudice, immesso in pieno nella vita cittadina e culturale della città, ambasciatore con Musato ad Enrico VII, Genova, ambasceria di Genova, per esempio, dico a caso uno qualunque, i suoi discorsi folgoranti che noi dobbiamo accettare nel cliché di Musato, cioè fino a che punto proprio Rolando avrà detto quello schema che doveva essere contrario a quello di Musato, anche per creare un certo, fino a che punto, sono discorsi anche letterari, ma insomma discorsi folgoranti. Rolando da Piazzola, diremo anche poi, sarà tutto, è tutto da scoprire. Personaggio finissimo, finissimo, che ora è noto solo per un certo episodio che inutile ricordi, per delle lapidi che lui si dice cercava a Roma, cioè si imbatte nella zona del Vaticano e guarda della chiesa, dico di ma insomma non importa adesso, trova una lapide, la legge, l'interprete, basta. Così è noto nel mondo delle lettere questo Rolando, per questa passione antiquaria per l'epigrafe. Musato plebeius, lo dice lui stesso, furono mandati due all'ambasceria, due uomini, plebeius, Musato e un altro, poniamo. Ama sempre ricordare questo, Musato l'uomo sanguigno. Nulla della gentilezza, anche direi, anche formale, di Lovato. Musato dice le parolacce ed è richiamato da Lovato ad essere nei suoi versi più casto, più ricco, a parte Priapeia e Cuneia, non importa, proprio c'è questo distacco anche formale. Usato le storie, basta che uno legga un latino piuttosto arido, a volte addirittura dialettale, a volte medievale, non c'è, parlo della prosa soprattutto, non c'è questo sforzo continuo. Musato, ripeto, è sanguigno così, ed è violento in quelle sue, per esempio, orazioni, a volte paludate, a volte irsute, quasi dure. Musato, che conosce anche lui perfettamente, ma inutile dirlo subito adesso, conosce questi antichi. Gli basti un solo esempio, il celeberrimo Titulus, ricordato da Svetonio per Cesare dopo il trionfo, Veni vidi vici, è Svetonio che ce lo dà. Musato, ivi veni feci, nella prosa, oppure ivi nei versi, e poi il verso alla fine del secondo verso, vici, cioè chiaramente questo bisogno di rifarsi. Dopo Musato ho detto plebeo, notaio, col matrimonio poi poverissimo, deve mantenere i fratelli, col matrimonio poi coi ricchi, si innesta in una carriera che non è solo, è proprio politicamente parlando, al centro della città, di fazioni di nobili, gli emizi o cani, è una carriera splendida che lo porta, che è poi quello, rispetto anche a Rolando, guerriero, ferito più volte, avanti con tutto quello che di gioco c'è, stile guerrieri antichi ricordati da Livio, tutto quello che volete metteteci dentro, ma in realtà guerriero, esula più volte, e ambasciatore con Rolando, noto, notissimo, come la macchia d'olio, dicevo, per storico e tragediografo e poeta, lo diciamo subito, per le Ceride e poeta. Accanto a questi, Musato un po' più giovane di Rolando, c'è un vecchio carico di esperienza, un vecchio tipo Lovato, ma che è in ombra, pur essendo in questo legame d'affetti, Zambono di Andrea. Zambono di Andrea, figlio di un drapiere più vecchio forse di Lovato, muore nel 15 a Venezia, esula, per un delitto commesso dal figlio Virgilio, e viene espulso dalla città, cioè deve seguire l'espulsione del figlio, e va a morire vecchio a Venezia. Molto importante, muore, ahimè, lui amicissimo, padre quasi di Albertino, muore pochi giorni prima, pochissimi giorni prima, non sappiamo il giorno esatto, della laurea poetica di Albertino. Dicevo prima, questa scuola non è retorica chiamarla coi termini con cui si chiama Cenacolo, non è un colpo di fantasia, di penna che scrive bene, no! Noi abbiamo la testimonianza concreta del Musato. Sono più testimonianze preziosissime su questa scuola. A un certo punto, Musato nelle storie dice: «Me minerinque ego, Lovatum vatem, Rolandumque nepotem». Basterebbe questo, abbiamo la scuola fatta, meno Zambono, ripeto, che è sempre in ombra, ma presentissimo. «Dum sepe in diversoris», pensati i dialoghi di Cicerone, così. «Cum sodalibus», quindi qualche altro, io dico Zambono, «ob versaremus», ci mettevamo a conversare in diversoris, «inquientes, ut sic in gravescens judicer, iugiter et in dies nostra civitas magnitudine laborare ta sua». Così, a fine di clausola, «modicumque restare temporis ut iam senescens rerum ordo mutata universi politia solveretur minusque eam posse hoc ipso», Padova, Padova, diciamo, se volete al massimo 1310, quod plurimo crederat. E voi avete davanti il prologo di Livio. La stessa antichità, Roma. Perché Roma cade? Perché è cresciuta troppo. Magnitudine laborare te sua. E così tutto Livio, plurimum creverat, è in Livio. Di questi prestiti in musato non si finirebbe mai. C'è uno dei prologhi ad Eurico che è proprio totalmente la devastazione in un senso preciso del prologo liviano, con tutta la sicurezza di essere scrittore a servizio di Enrico, e se la mia povera fama varrà, varrà in quanto c'è la tua persona sostituita ad Enrico. Questo miracolo della Roma antica, questo che io chiamo religioso Livio, è stato detto anche di no, ma io lo sento come questo anticus animus, come lui dice di sé, di Livio, voi avete proprio davanti lo stesso quadro, cioè, ma Livio era padovano, scusate, non lo sapete, quindi è inutile che giriamo su. Quindi la, già sin qui questo Livio che parlò è tutto. Il conterraneo, vero, è forse historiographus per l'usato, vuol dire historiographus Livio. Cioè non dico forse, lo dice lui. Se anche la mia musa, la mia tibia non è come me, Livio. Accanto ci saranno anche i minori, accanto a Livio ci possono essere i minori, io sono uno di quelli, avanti, avanti, avanti. Poi c'è bellissimo un epistolo di Musato a Rolando, il suo amico. C'era stata una baruffa, insomma, tra loro due, uno era gastaldo dei notai, l'altro era col giudice. E c'è il ricordo stupendo in mezzo, il ricordo di Lovato morto. Una celebrazione favolosa, bellissima, tutta improntata sulla virtus antica, inflessibile. Qual è il difetto che Musato, la colpa che Musato fa a Lovato morto, al pater, all'avunculus, per Rolando, allo zio? Qual è la colpa? Di averli insegnato a preporre la patria ai suoi figli, alla casa. Ecco Musato guerriero, ecco Musato prigioniero. Ripeto, non è nominata la virtus antica, ma è tutto lì il passo. Poi lo anticipo subito, io non vi leggo quel brano lì, e non è neanche di quelli che avete, scusate. Poi il forse ignoto o quasi sotto questo aspetto, il brano su Seneca, il valore della poesia di Seneca tragico per Musato. Da questo brano voi immediatamente capite come è nata l'Ecerinide, come è nato il senso della gloria, della fama, cioè l'incoronazione poetica di Musato, perché per Musato questo è Seneca, cioè Seneca, la poesia di Seneca più alta è quella di Seneca tragico, perché la tragedia è l'espressione più alta della poesia. E dice espressamente, lo leggiamo un altro, perdonate un istante solo perché pensavo di leggervelo un altro punto. No, lasciamolo allora stare, insomma ve lo leggo dopo. Insomma, lui esalta questa poesia di Seneca tragico, che si è assunto questa poesia in trofeum lauream, la laurea di Albertino. Scusate, no, volevo leggervi l'introduzione, cioè il prologo alla Evidentia Tragediarum Seneca, c'è cioè uno studio sui metri di Seneca di Musato, al grande Marsilio. Per dirvi ancora di questa scuola, dice: a un certo punto mi hai domandato che io dicessi qualcosa, mentre d'un persepe in diversori, sempre questo diversori che ritorna, de moralium methodorum generibus inter nos sermo intercederet. Dunque era vero che di notte e di giorno giravano per Padova negli angoli in diversori a parlare di queste cose. Guardate che già è codificato questo, insomma. Dice: o Marsilio, nostri temporis langobardorum filosofe, ut de tragediarum materis qui quantibi traderem de quibus precipue Neus Seneca, Neronis preceptor, volumine 1, stili sublimis, per metra ab latinorum usu, comuni sequestrata, celebre opus studiose composuit. E lui dice, io lo faccio, te lo faccio, questo accetto questa tua cosa, nonostante la mia povertà, ricordando et abuit quippe quod me verentem esitantenque faceret tua, ecco, postulatio. Io sono verecondo, insomma, non oso, ma però, come se uno cercasse l'oro nel marmo. Ma, dice, tuttavia, uto prorsus, perché io non posso rifiutare nulla di quello che tu mi chiedi, non nulla a lovato paduano vate, decerpsi, quesiterei monumenta, cioè di quello che tu mi domandi qualcosa ho piluccato di quello che mi ha insegnato Lovato. Ex quibus, gli insegnamenti di Lovato, aliisque inc et inde congestis, raccolti qua e là, et ego, subunius quasi tragedie figurali, si immagine, eceridem, sub ea temeritate. La temeritas di fronte a per fare sulla traccia di Seneca le cerinde conscripsi que ec plenitudine tue autoritatis e fundam e la do a te. Infine facciamo molto coso, c'è una epistola a Zambono, la quinta, dove a Zambono di Andrea, dove Mussato dice questi termini, diciamo pure, retorica, bisogna concedere qualcosa alla retorica, ma sono versi, scusate, stampati, che voi leggete. Tu pater, anche Zambono è pater, ingenii fons et mens una moderni, uranie dictante tua, presage futuri, Zambono, è quello che più forse ancora, no, ha come Lovato, ha come il senso della politia. E Mussato gli si rivolge per sapere come andrà a finire questa roba. E difatti adesso vi dirò perché. Quod cupiat fugiat, erige, dice, consilius animi, cunctantis aselli. Asellus è l'asinello Lovato, Mussato, muxus, muxatus. Quindi asellus, il diminutivo vezzeggiativo, tirano su questo povero di fronte alla città che è in rovina o quasi, quod cupiat fugiatque iube de pecto recepto, tu mici dux auctor lex semita certior index. Lasciamo, ripeto, la retorica di Verdi, un po' così, fin troppo pieni di lodi. Resta il fatto che questi versi, dico a voi storici, Lovato scrive tra le primissime, Mussato scrive tra le prime epistole, al rinnovarsi delle fazioni dei ghibellini e dei guelfi di fronte allo spettro delle stragi ezzeliniane, spettro che si ripete secondo, cioè ormai Ezzelino era passato. Albertino chiede ansioso al vecchio saggio, a Zambono, questo. Cioè, dimmi tu che cosa succederà. E quello gli risponde. Cioè, voglio dire, è proprio l'interpretazione di questa politia. Noi l'adopero in termine aristotelico, greco, vero? Cioè, questo movimento di partiti, c'è la vita della città, in poche parole. Ed ecco, allora abbiamo i carmi, scusate, io non posso raccontarvi, queste sono le opere di Mussato, questo perché non finiremmo veramente più, io cerco di interessarvi se posso, insomma. Ed ecco, abbiamo i carmi di questa scuola. Accanto all'epistola che io ho nominato di Mussato c'è un gruppo di carmi, i cosiddetti carmi padrini. Questo abate padovano, erudito del Settecento, ebbe dell'Ottocento, ebbe la fortuna di scoprire in un codice marciano, anzi gli fu segnalato, non importa, questo gruppo di carmi messi in un ordine non perfettissimo, che proprio sono i carmi di questa scuola, quello che loro si dicevano in versi. I carmi che si citano CP e carmi padrin, perché editi per la prima volta da padrin. Allora, scusate se qualche volta ho anticipato notizie, lovato, che cosa vuol dire? Lovato è il lupo, ma lupacchiotto, perché è lovato, vezzeggiativo. Mussato, abbiamo detto muxatus, asinello, perché loro si presentano sotto questi nomi, questa cosa. Lovato è il lupo. Mussato è asellus o muxus. Zambono diventa il bos iliacus. Zambono, il bue è buono, il bue è buono, vedi Ovidio un passo, quindi per loro il bue diventa, è Zambono che è chiamato per esempio a fare arbitro in una lite, il De Prole, viene chiamato proprio questo Zambono di comune accordo, discutono se vale la pena avere figli o no, se sia meglio non averli, Mussato, Lovato, anche qui dice Lovato, ovvero carico di figli, dell'estus dei figli, che conosce questa fatica dei figli, sostiene che è bene avere i figli. Lovato dice invece, cioè Mussato, scusate, dice, sostiene invece il contrario, che l'avere i figli rappresenta per il padre un carico terribile. Allora discutono, le solite questioni medievali, qui siamo nel Medioevo, qui sì siamo nel Medioevo, se volete, interviene, di comune accordo non si accordano, chiamano questo notaio, anche lui, perché il premonesimo padovano, ormai lo sapete, nasce da questi giuristi, Zambono di Andrea. E Zambono detta la sentenza con la quale chi perde, chi deve pagare, chi è? Non è Lovato, è Mussato. L'asinello che è giusto bastonarlo, che è giusto che paghi, che paghi anche una lauta cena, che intanto venga messo a digiuno sulla nuda terra e avanti, avanti, tutto quello. Bellissima cosa, così simpatica, dove c'è filosofia, c'è di tutto. Lovato Mussato. Tra questi carmi, io direi di scegliervi quelli che possono, uno solo adesso, che possono interessarvi, e cioè, come storici, per la guerra delle Saline. Eccolo. Quando per la guerra delle Saline, vi leggo in fretta perché è una cosa, tra padovani e veneziani, di fronte alla pace dell'ottobre-novembre 304, Lovato domanda all'amico se quella pace, cioè domanda a Mussato, guardate sempre lo spirito di questi problemi che sentono della vita della città, e li ritenga veramente onorevole per tutte e due le parti, quella pace, o se non sia piuttosto una ferita alla libertà e causa di nuova lite, sentite con che forza diversi risponde, dice Lovato, libertatis, dice, libertatis enim, quesse dolet ex coactam, arbitrio non ire suo, ricordate Zeno, se la libertà viene coartata, natura libertatis, la natura della libertà requirit carceris effugium, date a carceris tutto il senso classico che sapete, nec vunto pressa teneri, nec se contemni patitur, virescuere sumit, indocili servire Diu, stimulò quell'attenti incita, mordaces exercet acerbius ira. Albertino riconferma purtroppo i tristi presagi a causa delle lotte intestine della città pronta per l'odio a tornare alle battaglie, e dice, ricordando anche qui un po' Virgilio, discordes igitur victi succumbimus hosti, le bucoliche sempre tristi, no? Nunc victi tristes, una delle ultime bucoliche, discordes igitur victi succumbimus hosti, olli terga damus, il libero, olli terga damus, al nemico Veneto, la dominazione Venezia, parere tiranno, cogimur. E alla fine, perché sappiate lo spirito ancora di questa scuola, che è incredibile, l'Asellus così prega il suo lupo, dall'urlo inconfondibilmente dolce, cioè un lupo, scusate, che non è un lupo, proindo ulula, gli dice, perché sia Lovato sia Zambono, carichi di esperienza, hanno visto la tragedia di Azzelino, conoscono tutto, sono quelli che sono come l'oroscopo, devono sapere qualche cosa. Proindo ulula, prevedere come andrà a finire. Proindo ulula, qui dulce soles ululare di Caon. Di Caone, mitologia, diciamo lupo per fare in fretta. Unice mi curas comes et solamen in omnes. Di Cage, dimmi, res patrie, ecco la loro grande parola, le cose della patria. Soli plorabimus ambo, saremo solo noi a piangerle, oppure ci mettiamo nella turba, la turba oraziana, la confusione, il popolino, ansimulemus eas taciti. Virtute relicta, lasciata la virtus, che dovrebbe andare con una V maiuscola, insomma, la virtus romana, ut relicticides, come tutti gli altri, turbe et numeremur inerti, e noi ci confonderemo, saremo chiamati anche noi nel novero della turba inerte, sono tutte parole classiche dalla prima all'ultima, scusate. Erige me dubium, chiariscimi questo punto. Ma vedete con quale fremito lo dice. Certo, cuoque rovere firma, e dammi la forza in fondo per proseguire e per decidere. Sono versi ignoti, o quasi, commentavo qui per un altro discorso, che rappresentano però evidentemente qualcosa di più di un passatempo poetico. Ahimè, sono stati, tutti questi carmi della scuola sono stati a un certo punto da un biografo definiti. Lovato, giudice, aveva anche il tempo di dedicarsi, proprio la frase questa, dei passatempi poetici. È qualcosa, direi, di più. Sono versi forti, sono versi che insegnano parecchio, oggi come ieri, come i tempi di Roma. Lasciamo il De Prole, cioè il non c'era interessante, cosa, ma non c'è assolutamente tempo, perché io so che già non so dove andrò a finire. La lettura di quel Carme 13, gli anticipo solo un discorso, il Carme 13 dunque di questa che inizia lì a pagina 11, lo vedete, finora non si sa che cosa sia, cioè non è stato definito. Quando il padrin pubblicò, alla fine dice: io vorrei buttare lì una cosa, se la mia non fosse come la volata di Icaro, c'è un tentativo buttato là, per me potrebbe essere Musato che si rivolge al benvenuto Campesani, cioè a un arbitro non contento della decisione finale di Zambono che lo condanna, passare alla sentenza definitiva, secondo le regole della questio, va bene, io non accetto e mi appello al giudice finale. In frettissima Zambono dice: benissimo, scrive a Benvenuto da Campesani, l'umanista vicentino, il preumanista, e gli dice: ci sono due qui che hanno discusso sull'avere figli o no. Il lupo dice così, l'asino dice colà, io ho dato questa sentenza, per me perde l'asino. E ti prego, dall'alto della tua sapienza, carmen moduleris opimum, fai un bel carne e mettici tutti tranquilli. E noi, poveri discendenti, stiamo cercando questo carne che non è saltato fuori. Il padrin dice: forse il carne 13 è l'appello proprio del Musato a Benvenuto, ma tutte le conclusioni che trae sono completamente sbagliate. A farla in breve, è veramente il carne che Musato manda a Benvenuto, ma la stupenda improvvisa cosa è questa, che questo carne viene ad annullare, è come uno scherzo finale, ad annullare completamente la necessità della risposta del Benvenuto Campesani, in quanto non è una protesta contro la decisione di Zambono nei suoi riguardi, no. Musato si limita a dire così alla sua musa: va, affronta questa persona, va a Vicenza e di questo che io ti dico. Domandali anzitutto come sta, poi domandali, parlali della chiedili della situazione di Vicenza, del foro vicentino, dove tutto è a posto, dove non c'è, diciamo, l'ingiustizia. Scusate, dice a Padova, spiegali, è tutto ingiusto, le porcherie dei tribunali, e avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Di Vicenza non dice niente, cioè è il silenzio, Vicenza viene esaltato. Poi ripetendo, non si è accorto il padrino, alla fine, e voi lo vedete, dice domandali come stai, poi parla di queste porcherie di Padova, di questo, fa un ritratto terribile, esagerato, e il silenzio esalta, ripeto, questi tribunali, per dire la giustizia ideale di Vicenza, e conclude: in modo de multis non ulterior rogato, non domandare di più, nuncia plus sequo ne videare loquas, perché tu non sembri più loquace ancora del necessario. At tua si patavum testentur metra timavum, se le, i metri, i tuoi versi, risentono, cioè si sentono subito nati, sbocciati fuori dal patavo timavo, iure caballinis dic proibemur aqui, dillo che noi ha ragione, siamo tenuti lontani dai caballinis aquis, che vuol dire dalle acque di Ippocrene, delle muse, dalla fonte delle muse, perché dice, e qui è gentilissimo e finissimo, non lice ut stolido fontes potentur asello ut sacros muse quos coluere dee. Non è giusto che lo stolido asinello, l'asino, tocchi queste intatte, limpide correnti della poesia e delle muse, queste correnti che sono state coltivate dalle muse, dee sacre, come sacre le correnti, anche qui il senso della poesia. Cioè, in conclusione, Mussato annulla la risposta, Mussato più che mai accetta il verdetto, ed è quello umilmente che non osa mettersi vicino a Lovato, ai grandi poeti, a Zambono e soprattutto, gentilezza di fronte all'ospite, a Benvenuto da Campesani, che scrisse un Carme, un Carme per gli Scaligeri, molto noto. Viceversa, io vorrei un attimo fermarmi al Carme 33. Sempre per loro, per voi storici. Anche qui il padrin parlò di un Edipo che potrebbe risolvere questo Carme. Da allora nessuno poi ha più risolto niente. È stato un po' un dramma anche per me. Credo di essere giunto, cioè ho capito chi è l'intestatario di questo Carme, il dedicatario. Dunque, questo Carme è molto bello, molto strano anche. Cioè, il padrino aveva detto quella Enrice che vedete a verso 11, dice Enrichetto della Bona, anche qui la guerra delle Saline, no? Siamo fuori strada. Questo Enrice è Enrico VII. Questo Enrice è Enrico VII ed è il primo per me, cioè il primo vero Carme che Mussato manda ad Enrico, quando ormai Mussato entra nell'amicizia con Enrico. Mussato è presente all'incoronazione di Enrico VII, Mussato entra nell'amicizia, ottiene, ai miei tempi di allora erano quelli di oggi, ottiene tutto quello che può ottenere lui, plebeo forse ignobile, sottolineo, per me ignobile, cioè con la nascita illegittima non è un delitto neanche per me padovano studiare e credere che lui sia ignobile, pazienza, era ignobile, insomma, è inutile con gloria voler difendere che non è ignobile, oppure l'ironia in questo caso proprio banale del Novati, ma lasciamo stare, questo è il primo Carme, così. Per me è un Carme che potrebbe essere un frammento, perché è veramente difficile capire, perché la musa di Mussato è chiamata alla fine, perché dice al verso 11, cioè al verso 11 appunto la camena, vedete, lecta tamen veri fida nuntia soni. Il Carme dice così: ansia. Chi è quest'ansia? Per me è la musa. Questa musa, non lo leggiamo, questa musa del musato gira in vano Roma. Ma i vecchi padri di allora sono morti. Cioè è tramontata l'antica Roma. Dice, non vedi questa città, Venezia, come spunta fuori dalla laguna, dalle cose adriatiche, insomma, è lì, anche lì, nessun poeta trova premi, cioè ricompense alla sua fatica. I miei tempi erano sempre uguali, questi poveri letterati, vero, o poeti. Dice, occidit in terris, quis fui temptor agave, qui le reminiscenze classiche sono ad ogni verso, sono 11-12 reminiscenze perfette, questo è Stazio, no? L'agave di Stazio, non c'è più nessuno disposto a comprare la tragedia agave in questi tempi, allora sì, pensiamo anche oggi, e che mecenate non abete nulla domus, questo è Marziale, nessuna casa più si presta a fornir soldi. Allora io, dice, cioè la mia musa qui passa dalla musa a lui personalmente, territus effugio, pennati, stagni a cavalli, sfuggo gli stagni di Pegaso, il cavallo famoso e la fonte ipocrene, voi sapete, tutta mitologia, per forza questo sfoggio, perché Galeno giudica malsane queste acque, acque di Venezia, naturalmente, della laguna, ma metaforicamente le acque della poesia che non rendono, ecco di fatti i due versi, il principe, che è il doge di Venezia, dice, vieta, non vuole, non permette che i poeti siano immuni, e quindi io mi rifugio nel passo dalla Sapienza, Tritone, alla onda del rosso tago. Che cos'è l'onda del rosso tago? È il desiderio di guadagno, e quindi dalla Sapienza mi butto, anche qui tutte reminiscenze classiche. Poi si rivolge ad Enrico, dice, Enrico, la mia povera musa, anche se non ha nulla di speciale, anche se è incompta, ricordiamo l'incompto di Tibullo, tutto quello che volete, lecta tamen veri nunzia fida soli, però se letta è la vera annunciatrice cioè è l'annunciatrice del vero suono, cioè la verità della poesia. E mi è grata questa musa perché? Non fosse altro perché, avendomi concesso l'amicizia tua, o Enrico, mi permette di buttarmi nel gran mare sul candum, iam bene stravi titer, il mare della vita, ma è non avere grosse preoccupazioni di denaro o di altro, certo, è un carme, un viaggiatore un pochettino, non è vero, ma insomma credo che non quella Enrice non possa ammettere che questa spiegazione. Se così viene datato 1311, cioè all'inizio del 1311 abbiamo l'incoronazione di Enrico VII a Milano, all'Epifania presente il Musato e gli ambasciatori padovani. Subito dopo Musato, che tra l'altro poi ha fatto il ritratto di Enrico e altre robe, manda. Questa è una delle prime poesie. Poesia d'Enrico, ce ne sono delle altre, questo nel contesto del discorso. E adesso, scusate, ancora per voi storici, l'ultimo, quel carme lì piccolissimo che vedete, il 52, e qui veramente io butto un sasso e poi domando a Seneca, a Sandin, agli amici storici che cosa dicono, scusi, professor Manselli, a tutti quelli... Dicevo loro perché erano problemi padovani, ecco. Scusate, 41, 42, 40, 41, ecco. No, è un discorso importante. Dunque, il Rolandino nella sua cronaca ci dà un esempio di una favola raccontata alla corte. Siete stanchi? Ditemi perché taglio, perché francamente, insomma, ma no, insomma, ditemi francamente, non è, diciamo, Rolandino racconta come alla corte di Ezzelino viene recitata una favola, e questa favola, recitata dal solito cantastorie, ha tutto un retroscena. Ezzelino non è uno stupido, capisce che cosa vuol dire. È una favola terribile per lui, perché come le favole di Esopo c'è una morale. Qui dice, per me musato, per questioni stilistiche, non altro: Gracula si mater, non occurrisce te unti, Graculus, scusate, per l'esegesi del Carme 52 il padrino notava, e questa è una favola allegorica modellata su quelle di Esopo. Io però non sono l'Edipo fortunato che sappia indovinare l'enigma della Sfinge Antenorea. Naturalmente sono passati tanti anni dal povero padrino, vero? E continuava ricordando appunto la favola, ha fatto molto bene, la favola esattissimamente la centrata, la favola di Rolandino, raccontata Rolandino. I versi sono questi: Gracula si mater, non occurrisse che unti, Graculus inceptum continuasse titer. Iba tut exuerete nigras te terrimus alas, dico subito exuerete, buttar via le penne per mettersi le penne del pavone, cioè passare ad un altro greggio e cambiarsi le penne. Obstitit la madre et rauco pectore verba dedit, quop operas minate, redi, tibi fata minantur, guardate che quel fata è potente, ne pereas, cursus ora reflecte tui. Cambia marcia, torna indietro, torna al nido e non volerti mettere penne di un altro. Territus, ricordate il territus de prima di Musato, territus effugio, pennati stagna cavalli, per questo e per altre cose io penso a Musato. Territus ad rapidi revolasse cubilia nidi fertur et in pluma delituisse sua. Tornò indietro e mase buono buono nelle sue cose. Io direi, io commento così: se penso ad eventi particolari nella storia di Padova di allora, non saprei dare alcun riferimento preciso e attenderei lumi dagli specialisti. Ma siccome mi trovo di fronte a questi innamorati dell'antico, per Lovato, veterum vestigia vatum, sapientum dicta priorum, un abito, l'antichità che lui non può più togliersi, more su, more meo, non posso cambiare, è una malattia che ho. Se invece dovessi rifugiarmi all'antichità cara a Lovato e a Musato, non potrei non pensare alla suggestione dell'episodio famosissimo di Coriolano e della madre Veturia, pur con tutte le perplessità che ogni favola, a volte volutamente, come ogni indovinello, lascia dietro a sé. Quanto all'autore, direi Musato, dai. Cioè, insomma, chi ricorda in video da Leggio Massimo alla madre Veturia, che improvvisamente è l'unica che riesce a distogliere. E perché dico questo? Proprio per quell'inizio. Iba tut exueret, con quella teterrimus, nigro, nero, perché il Graculus, ma proprio anche dentro, pieno di rabbia quasi, di uscire fuori. Per me, se questo vuol dire qualcosa, se non è una sola favola, il che non può essere perché si parte da una favola concreta esopiana, per me è un qualche cosa di questo genere. Insomma, così si butta là, naturalmente, senza voler insegnare, per carità, a nessuno. A questo punto, e lavorando un po' più in fretta, io direi per episodi, diciamo, qualcosa che vi può interessare. Proprio per dire, si parte sempre dall'insegnamento di Lovato. Lovato, e poi mi diceva ieri il Butterini, che qui cita, dice: forse una cosa necessaria è dimostrare, ho sentito anche per gli altri, la novitas di queste cose, cioè dimostrare come che preludono tempi moderni. E allora ho preso la palla al balzo e dico, proprio insistiamo su questo. La modernità dell'insegnamento di Lovato, modernità, cioè è un mondo, insomma. C'è l'epistola 3, Abellino Bissolo, un poveretto, ma detto in tutti i modi, poetucolo, ora sembra, io speravo fosse un frate, nei tre documenti non ho potuto mai trovarlo, così un frate Bellino, e devo accettare che sia Abellino Bissolo. dico frate per un certo tono di discorso, taglio di discorso, Bellino Bisolo, che appare, ha delle opere tutte medievali, come Geremia Montagnone, recentemente anche pubblicate nel Studi Medievali di Citra. Ora, questo Bellino è ancora, rispetto a Lovato, alle origini, diciamo. Scusate, solo per affrettare. Interesse di gran lunga superiore alle altre desta per il suo contenuto, leggo in questo caso l'Epistola 3, ancora in esame, tricondistico di commiato indirizzata sempre da Treviso, perché le prime poesie di Lovato sono, ci richiamano a Treviso, forse si ritirava lì quando era stanco, si chiama Eger, ma per me è tanto voglia di imitare d'essere egrotante di Tibullo, proprio il gusto a volte di mettersi questi panni, anche esagerando, insomma, da malattia. Non sappiamo quando quel povero poeta che fu Bellino Bisolo. Lo spunto era orazianamente e argutamente venuto dalla scenetta di un cantor che in una piazza di Treviso declamava della barbarie del suo francese le gesta di Carlo Magno. Attenzione, accanto al mondo, al classico, c'è sempre questo mondo attraverso i cantastorni. Dopo vedremo nei nomi Rolando, no? Questo mondo dei paladini, no? Questo cantor declamava, no? I versi nel suo francese, cioè malamente, lo dice chiaramente, le gesta di Carlo Magno sui paladini, mentre entusiasta e naturale pendet plebecula circum auribus arrectis in una piazza di Treviso. Lovato, con visione in certo modo profetica e oraziana finissima, qualcosa di favoloso, aristocrazia di giudizio, difende appassionatamente la poesia classica. Qui, scusate, l'interpretazione è quasi tutta nuova. Rispetto all'interpretazione del Sabadì e del Foligno, il primo editore di questi carni, che ebbe la gran sventura. Venne via da Londra, era bravissimo il Foligno, fece la collazione sul codice e si portò via degli appunti. Poi il codice non lo ebbe più. E pubblicò, forse troppo in fretta, sì, dobbiamo dirlo, male. Nello stesso volume di Studi Medievali, il secondo, il Sabadini stroncò. Gentilissimo in principio, grato a Foligno, ma nello stesso volume, ahimè, stroncò del tutto. E con la sua divinazio di filologo classico, cominciò a mettere puntelli, cambiando qua e là i versi, mettendo le parole, senza avere avanti il codice. Cioè siamo grati della divinazio di Sabadini, ma in lei ricadevamo in un altro problema. Difende appassionatamente la poesia classica, basata sulle regole precise della metrica e sulla sermocinazio, per la quale il verbum deve essere sempre al servizio della res. Cioè la poesia classica per Lovato è concreta, guardate che non sono idee sue, cioè le idee come afflato, come entusiasmo, ma sono tutte cose che si ritrovano negli antichi. Dichiarandosi seguace degli antichi modelli a qualunque costo, questo è poco e dice ben di più, e deridendo sdegnosamente la poesia ritmica in volgare, ove leziosità di vocaboli rimati accarezza la poesia ritmica in volgare, nasceva allora, vero che nasceva, era già, ove leziosità di vocaboli rimati accarezza sì l'orecchio, ma contorce e stravolge l'idea. Questa seconda invece Bellino sosteneva, sull'onda dell'approvazione facile del volgo, condannando dell'altra, della poesia classica, i voli e le astruserie, secondo Bellino. Lovato se ne libera molto presto. Ridotto con Persio, il plauso della folla alla sola Pannuzia Baucis, a una femminuccia, questo è il plauso, questo è la folla, la Pannuzia Baucis, sulla base di Persio, cioè a una parte ben limitata e modesta, si affida al giudizio fine, unico valido dei signores. Signores, signorum consul erugas, i senatori, no? Controlla le rughe dei senatori. Vedrai che in questo punto storcono il naso. Ancora Persio, cioè non sono d'accordo. Sono pochi, ma sono quelli che valgono. Io sono coi signores. Signorum consul erugas, vixeri tutto possis, non crispum cernere nasum. proprio la fase più pesante, il naso che si attorciglia, insomma, proprio a non accettare questo plauso della folla. Adesso guardate che qui sono le cose più belle, in questa solitudine severa e sprezzante del dotto, che vuole a priori essere coi pochi, e la superiorità ancora una volta di Lovato, che sicuro del trionfo del latino, anticipa anche qui gli ideali di Poggio e prima di Poggio di Giovanni del Virgilio e del Petrarca. E i versi finali sono fantastici. At tibi ne lucem concludat lucis imago. Attenzione, che la troppa luce non ti tolga la possibilità di vedere. E sempre con la teoria del medium tenere, la medietas di Orazio e di altri, no medium teneat quae scribis in astra volante, ma anzi, ben importa. Dunque, attenzione, che quello che tu dici che batte le nuvole, come Icaro, ma sia invece proprio quello che è nella verità, o che in ogni modo te sit proprio, che sia più vicino della tua teoria, obscure, circunspice, guardati d'attorno, dunque tenebras obicis, e mentre mi accusi, cioè dici che queste sono tenebre, concedi, guardate poi come detto con gentilezza, anche un pochettino di crepuscolo alla notte oscura, cioè prima della notte oscura c'è il crepuscolo, che io non sia proprio nel crepuscolo, dice Lovato, mi basta quello, e avanti. Tu mi accusi di che cosa? Dice Abellino. Quod sectanda putat veterum vestigia vatum. Tu mi accusi di seguire i vestigi dei poeti antichi. Despicis, perché io seguo le vestigia dei poeti antichi, anche questa espressione, Orazio, despicis, mi disprezzi. Oppure, autometrica quod cogit lege decentem sermone servirei, è stato molto discusso su questo verso ed è proprio quello che vi dicevo, cioè da Sermocinazio, il verbum deve essere sempre al servizio della res, cioè le cose, il pensiero è quello che vale, non il paludamento intorno. Ne principe verbo res mutata cadat, quod textus metra canori ridet, ud intentum concinna vocabula torquent. Tu in conclusione, e qui c'è la finta esaltazione della poesia, diciamo, ritmica, vabbè, no, che, perché io derido la poesia ritmica, perché è tutto un qualche cosa di lenocinio di forma, ma non c'è la sostanza. Di caso, dimmi allora, non quendam, forse che, quendam sile at quem penna secutus ed ipodioni perplexo carmine monstri nexit ambages, e qui con una ironia favolosa prende Virgilio, prende tante altre belle cose e dice, ma forse io ho cantato con le ambagi della Sibilla, eccolo qui, nun versibus edit tantri abita cirrei, nun mandat a folis responsa Sibilla, questi miei carmi sono così nascosti da... E in faccia gli dice, despice perpetia, disprezzami pure, sopporto. Sede te che sentenzia, sono fermo nel mio proposito, persto more meo, insisto sul mio costume, cioè questa poesia classica, questa esaltazione degli antichi, le antichità patrie, questa archeologia, tutto quello che volete, questa appunto antichità, è proprio, in questo senso antiquario, è proprio un abito, un morbo, come dirà, suo. Sede tec sentenzia, persto, more meo, et longi vizium non corrigo morbi, non cambio, certo, nonostante la tua proposta, non cambio. Il vizio, il difetto di questa malattia che risale a tanto tempo, e noi sappiamo risale non ai 20 anni, forse ai 16 anni di Lovato. Spero tamen, finiamo, dice, spero tuttavia, mi basta che ci sia uno interpres, vero, fidus interpres. Fidus interpres è in due parti, Seneca e Orazio, cioè uno è una cosa, uno è un'altra, uno non è fidus, ma non importa. Mi basta anche qui l'approvazione di uno solo. Uno solo però che sia veritiero fedele, che capisca questi sforzi miei, satis excusabile nostrum forsam crimen erit, nec me hoc peccasse pudebit. E dice, vero la mia musa, insomma non importa, finisce con, dice, c'è la luce anche nella mia poesia. La bellissima cosa è che Lovato, nel rinfacciarmi tutte queste cose, volutamente usa un linguaggio e un contesto che inconfondibilmente è allegramente tortuoso. Cioè tutto proprio fatto di questi ambages, proprio perché destinato ad un oppositore delle presunte ambages della poesia antica. E difatti, ahimè, questi versi non sono stati capiti. E il Sabadini, io poi non concludo il discorso, dice di Cace, quel verso famoso 93, Sabadini augurò un Edipo, proprio tra virgolette, una volta a questo verso, perché non riuscì a capire. E mio fratello lo sa, per anni abbiamo cercato se vicino a quei tempi Lovato ci fosse uno che avesse cantato di Edipo e di altre cose sotto il velo, così, e non siamo riusciti a trovarlo. A un certo punto, come si dice, lavandosi le mani alla mattina, venne fuori improvviso, insomma, ed è Seneca. La poesia di Seneca è tutto il brano che lui riprende, Seneca. E quindi per lui era, ovviamente, non occorreva dicesse Seneca, perché era proprio il suo padre, il suo maestro. Questa, andiamo verso la fine, questo insegnamento, questa passione per gli antichi, questa difesa degli antichi, questa difesa del latino, scusate, non parlo della contestazione del latino, no, per amor di Dio, lasciamo stare. Questa difesa, in ultima analisi, del latino, perché non lo ricordate soprattutto? Perché anche qui Lovato, in un certo senso, è padre di Musato, per che cosa? Per la famosissima, mi spiace non ci sia questo buco, la famosissima polemica del Musato con Fra Giovannino da Mantova, il Domenicano. Io spero, voi forse avrete sentito, per Musato, cioè a un certo giorno, questo fratone, vero, fa il suo discorso nella chiesa di Sant'Agostino, presenti tutti i notabili dell'università, e Paolo da Teolo, amico di Musato, e professori e tutto, fa un sermone in cui se la prende, verso Natale se la prende contro tutte le scienze, e le combatte tutte. Però l'amico di Musato, Paolo da Teolo, lo informa, non ha combattuto contro la poesia, Musato non c'era. Allora Musato dice, lascia che gliele dico io. Dice, ma contro la poesia, ma doveva anche accusare. Sai perché non ha combattuto contro la poesia? Dice, perché nulla avrebbe potuto dire contro la poesia, perché la poesia è uguale teologia. Secondo Aristotele, primo della metafisica, primi filosofantes furono teologizzantes. E così è, non avrebbe nulla potuto dire. Oh sì, frate, dice, perché non ho parlato? Perché mi sono dimenticato? Perché non avevo davanti una persona, Musato, contro cui, da cui prende lo spunto per questo discorso. E allora nasce una polemica, anche qui, scusate, è polemica, non è polemica, Lovato è malato, non è malato, per me questa gente anche lavora sotto di comune accordo, cioè insomma su filoni già preparati, cioè è giustissimo, parlava nei giorni scorsi con mio fratello, è più stima verso Giovannino o è più astio, è più polemica? Lasciamo stare. Probabilmente c'è una stima sicura. Giovannino era il lettore del convento, era certamente di grande cultura. In questa polemica che annuncia che cosa? Io non sono d'accordo, scusatemi, con chi, diciamo pure, Garelli, ha detto qui Musato è negatore addirittura di ogni religione rivelata. Per me così si spinge, tanto è vero che Dazzi stesso, prese lo spunto per difendere in certo modo il cristianesimo di Musato, che rimane cristiano. Ma naturalmente per Musato il discorso è questo: l'acqua dell'oceano è l'acqua del battesimo. il mito dell'oceano è il mito del battesimo. Cioè, dalle favole degli antichi e dalla poesia di Ovidio, perché già Ovidio dice sacra poesis, non occorre andare a cercare altrove, questi nostri volevano trovare la giustificazione sui testi antichi della loro fede. Per me il dire che è una dissacrazione in atto di ogni religione rivelata quel fatto che Musato dica questa bestemmia, diciamo, che l'acqua dell'oceano è come... No! Perché subito dopo Musato dice quando vado a messa, no, subito dopo, in un altro carme, che Garen non commenta, non ricordava forse, Musato dice quando vado a messa, vado a messa, contemporaneamente c'è Venere e Minerva e c'è la Madonna, perché nell'introito della messa salve Sancta Parens, per lui questa Sancta Parens è quello che voi potete pensare, cioè tutto quello che la mitologia e altro, perché il libro della Sapienza, io ero prima che i monti fossero creati, prima che esistessero gli abissi, dice proprio quell'introito. Il libro della Sapienza, poi la Chiesa si servì per l'introito di quella messa, e ovviamente la poesia, Musato lo dice subito, è anteriore alla notte dei tempi. La mia poesia parla in prima persona, la poesia mia, e cioè la poesia stessa che parla, io nacqui prima di Dardano, il nostro Dardano, ben prima. Quindi, in questo senso, mi permetto di temperare un giudizio così forse troppo duro. Non parliamo del Musato dei Soliloquia, dove non è altro che contrizione, le favole degli antichi non valgono più, è Musato nudo di fronte alla morte e basta, tutto quello che ha fatto è peccato, la sete di guadagni e cose, però ahimè anche allora Cristo è il coso dell'Olimpo, ovvero i tuoni dell'Olimpo insieme con il Cristo risorto, insomma voglio dire è tutto un mescolare di immagini. C'è bellissimo un brano sulla chierica, l'avete già letto, non so, sulla chierica, in questa polemica, che direi si può leggere, sono due parole, perché veramente qui direi Musato è eccezionale, insomma, ed è veramente un signore di fronte a una polemica povera, in certi casi, del frate. Io ve lo leggo non nei versi, ma in una prosa premessa, che per me è nata sotto le ali del Musato. Tanto è precisa cosa. Il frate aveva detto, cioè parlavano della, Musato aveva detto della coronazione poetica, della corona poetica, va bene, che è eterna perché è verde, e l'alloro è sempre verde, è verde ed eterna, è la gloria dei poeti. Sentite che bello. Il frate dice, si aut mista coronatio, circa ipsos poeta significabat, potest dici quod corona, se vuoi proprio dire che l'incoronazione poetica vuole richiamare i poeti, si può anche dire che questa corona di alloro è circolare. Voi direte, ma che cosa vuol dire? Adesso sentirete. Undique recedens a medio, propter quod significabatur quod poetica maxime circa varietates circuit et versatur et a medio veritatis ut plurimum elongatur. Cioè si allontana, cioè gira e si allontana sempre più dalla verità. Vedete cosa sono le metafore, i giri di questa gente. Qui è medioevo, eh? Qui è medioevo, medioevo, medioevo. Anche io ami appassionatamente il medioevo. Era tautem, dice, dell'audo. Parlavamo, cioè, tu parlavi della loro, tu poeta. Que habet viriditatem et odorem exterior, cioè dal di fuori ha verde, è verde e profuma la loro, ma dentro, se uno mangia la bacca, o le foglie, amaritudinem autem continet. Sicut patet exelius fructu qui est amarissimus. Sic poetica, dal di fuori ha un certo decorum verborum, dal di dentro amaritudinem vanitatum, con il commento a vanitatum che si può, vero dire. usato qui è favoloso. Risponde così. Albertino ribatte, cito sempre dalla prosa che francamente mi piace di più, scusate per la concisa, folgorante signorilità, dice, se vogliamo metterla proprio così, attenzione, dea maritudine autem foliorum, et de varietatis circunferenzi e corone, ambiziosa sunt verba, cioè tiri l'acqua al tuo volume. E adesso viene la stilettata stupenda. Sicchenim, quis qualcuno, allora se la mettiamo così qualcuno potrebbe interferire sulla chierica, che è circolare come la moneta, no? Sicchenim, quis alludere posset corone, dice, sentum sure multorum clericorum, et in probrosam partem traere, cioè esaminare come per la loro l'aspetto negativo di questa corona, non sono degni della chierica, tutto quello che volete, no? Quad quidem in urbanum esset. Punto e basta. Ora, non credo di agitarmi di fronte a queste cose, ma evidentemente c'è un succo di modernità fantastico, insomma, qui è proprio una lezione che anticipa. Ricordate che da questa polemica del Mussato con Fra Giovannino è stato dimostrato, insomma, cito qui da mio fratello, che ci sono passaggi precisi di testi attraverso il Petrarca al Boccaccio. Poi si va avanti, salutati, beh, Pietro Piccolo da Monteforte, salutati, e tutta la schiera, tutta, dagli umanisti piccoli e grandi. Per cui Mussato, a parte, dico che Sacra Poesis era anche nell'antichità, ma questa polemica è stata proprio un dilagare. Ora, queste cose, 100, 120, 150 anni prima di un cenacolo fiorentino. Allora qui, veramente, io domando di chiudere, cioè io lascerei a voi la noia del filone filologico. Non siete filologi, cioè avete scelto una cosa di storici. Voi sapete che Lovato è noto per la scoperta di vari testi a Pomposa, lui scoprì soprattutto il Seneca tragico, proprio torna sempre, torna questo Seneca. Ecco, io siccome vi promettevo prima, Lovato parla della poesia di Seneca tragico in quel modo che vi dicevo, vi leggo solo questo brano, dice «Anche nimigitur vetustissima nobilissimanque metodum non spernens, Seneca, sed sibi in trofealem lauream assumens sapientissimus clementissimusque Seneca», c'è sotto il Seneca pseudo della corrispondenza Seneca-San Paolo, tragediarum decem volume moc miro ingegno et artificiosissima subtilitate composit. Ebbene, chi scrive così è uno che ha composto le Cerinide. Quindi è stato portato a comporre le Cerinide sull'esempio di Seneca, delle opere più alte per lui, della poesia più alta, perché tragica è l'idea sempre, vero, che torna sempre, la poesia più alta è quella più tragica, e l'ha composta quasi, dice, in trofealem lauream, diciamo la laurea di Albertino, anche se non voluta, è sognata proprio sullo schema di Seneca. Per finire, chi ha proposto al Collegio dei Giudici la laurea di Albertino, torniamo a questo mondo piccolo, a questa atmosfera di amici, fu Rolando da Piazzola, giudice allora notissimo e di valore, che propose ai giudici, alla casa dei giudici, che fosse incoronato poeta Rolando con una Mussato con una cerimonia che è notissima, con paludamenti classici, tipici, con i guanti di pelle di Irco e tutto quello che voi potete pensare, proprio tutto classico. Quindi Mussato in quel momento diventa poeta, poi per le storie di Enrico, historiographus et tragedia. È inutile ricordare gli autori nuovi del corpus, della scoperti in parte ricordati, poi c'è il corpus liviano, ne ho accennato, il loro autore, quindi basta dirvi che Mussato c'ha questo paludamento continuo. Mi basti una sola frase. Bressano Buzzacarini è il podestà sciagurato di Manselice al tempo della conquista di Cane. Can grande Cane. Bussato lo chiama avarizia plusquam paduana. Ebbene, apriamo Livio, Annibale è perfidia plusquam punica. C'è poi un altro esempio più bello che in questo momento non ricordo, cioè in cui ricorre addirittura all'alliterazione. Un altro esempio in cui al posto di avarizia c'è una parola che vuol dire libidine e non mi viene latina, con la lettera A, plusquam apula, dice Mussato. Quella tale donna era libidine plusquam apula, non ricordo, ripeto il termine perché parlo a memoria, scusate. Quindi proprio con l'alliterazione stessa di caso. Non vi ho parlato, ahimè, era un po' questa parte finale, la scoperta della tomba di Antenore, cose che in parte sono anche note. Lovato compose un epitafio che ha valore per noi dal lato epigrafico, prima di tutto. E com'è? Perché? Lovato abitava lì a un passo. Fu chiamato come l'autoritas prima a identificare quei resti. Lovato sapeva da Virgilio che Antenore era stato sepolto a Padova e ivi riposava in pace. Era evidentissimo che lui fu colto da questa febbre dell'archeologia, e non sorridiamo come fu sorriso in questo errore che ebbe i suoi frutti. E scrisse: Inclitus Antenor, patriam vox nisa quietem, a posizione, voce che caldeggiò sempre la quiete patria, transtuli tu cenetum dardani dunque fugas, expuli teuganeos, patavinam condidi turbam, quanteneti cumili marmore cesa domus. Epitafio che ancora oggi si vede. Un amico glielo lesse una volta e insieme dicemmo: sembrano quasi versi virgiliani ripresi da Ennio. Africa terribili, terribili, torrida, terra tumultu, quel senso della sonanza, della literazione, dell'onomatopea. Pensate a questa fugas, dice, non fugam, transtuli tucche netum, dardani dunque fugas. Proprio è la corsa dei cavalli, insomma, questa anche, diciamo, come pregio di questi versi nel 1280-83. È un umanesimo, scuso di queste così razzi, umanesimo antiquario, epigrafico, studio e resurrezione delle antichità patrie e non patrie, sentito anche quello proprio come un abito da Lovato. Voi ricorderete un brano di Virgilio, terzo 95-96, dice: Eadem vos uber eletto, accipiet reduces antiquam exquirite matrem. Si potrebbe proprio indicare, anche queste poche parole che ho, purtroppo tante, che ho detto, antiquam exquirite matrem, cioè andate alla ricerca della vostra madre. Servio, nel commento ad Antenore, dice così, ai versi di Antenore, per Antenore di Virgilio, primo 241, cos'è, 48, così, qui Antenore, cum uxore teano, et filis elicaon et polidamante, ceterisque socis in lyricum pervenit. Et bello exceptus ab Euganeis et regio Veleso victor urbem patavium condidit. Ebbene, i nostri padovani, qualunque di questa testimonianza prendiamo per in onomasticum, tutte, dico tutte, prima vi ho nominato Solino, Orazio, tutto quello che volete, Ovidio, Virgilio, Tito Livio, tutte sono state riprese. Ma non basta, siamo partiti da Dardano. Ebbene, Lovato, sul humus, dunque, Lovato, lo impariamo adesso, purtroppo sono tanti anni che lo so, ma insomma ha dato nome ad un figlio polidamante, un nome piuttosto sonante, insomma, vero? Non è Rinaldo, anche polidamante, cioè il figlio di Antenore. Non basta. Zambono di Andrea ha due nipoti, da due figli diversi, credo la storia sia così, devo ancora chiarire del tutto. Anche lui polidamante, cioè il figlio di Zambono dà a un figlio il nome così. Ma è sempre stato primo Lovato, e ci tengo a dirlo, eh. Zambono ha un figlio, l'abbiamo detto, di nome Virgilio. Sì, questo è un po' acqua, ma è un nome Virgilio. Alberto, fratello di Lovato, pure notaio, pure famoso, non abbiamo versi di lui, ha un figlio Deifobo, notaio. Deifobo, il Priamide immortalato da Virgilio. E basta, ultime cose. In un atto del padre di Marsilio, tanto per girare un po', non ho parlato di Marsilio perché lì è tutto un altro, è molto più giovane, scusate, è quasi il l'usato per lui è maestro. Un atto del 27 febbraio 1280 è ricordato Tebaldo, figlio erede condam domine Lavinie. Io con i miei occhi ho letto anche Lavinie, se non bastasse. Cioè, siamo proprio nell'ambiente troiano, Dardano, va bene, Lavinia, Polidamante, perché Polidamante? Perché è il figlio di cosa, di Antenore. E poi abbiamo ricordato Deifobo proprio perché il mutismo è quella figura mutila, stupenda, vero? Orrendamente straziato dalla moglie nel letto coniugale, voi sapete. E ancora non finisce. In un altro documento noi troviamo, così buttato lì, ma io ne ho letti molti, non è che si trovino a piè sospinto questi nomi. Ibique Lionellus filius condam domini Hectoris. Che questo potrà essere anche più comune a Santa Lucia. Più tardi troveremo Creusa Zabarella, ma allora siamo in un processo che non si discute più. Siamo nell'umanesimo avanzato, allora è quello che mi dice Campana. A Rimini io trovo tutti questi nomi, ma piano, nel pieno 400. E africano in Salvini, va bene. Sulumus, mitico, fatidico, sacro delle tradizioni patrie, poté fissare le sue radici l'umanesimo di Lovato. Ma è purtroppo una pagina tutta nuova da studiare. Sull'esempio della Raina, di quel lavoro per le famiglie padovane e il ripetersi di Rinaldo, Rolando e anche questo, se volete, a volante trovo Morgante. Ringrazio molto il professore Pilanovic.